Con Claudio Morici che porta al Teatro Vascello a Roma il 30 e 31 marzo 46 tentativi di lettera a mio figlio. Claudio, ben ritrovato. Ciao, ciao, grazie. Allora, Claudio, intanto rispetto agli altri filetti di sgombro, tu hai due date, ben due date. Sì, ma mi ha fatto il trabocchetto, quindi una è più facile, ovviamente, due è il doppio, fare il doppio. Però no, va bene, così ci proviamo. Ci proviamo. Il teatro è molto grande, però è tanto bello, sta in una zona di Roma che noi filetti di giorno, filetti di sgombro, frequentiamo poco, ovvero si tratta di Monteverde, noi ci spostiamo, diciamo, Pigneto, San Lorenzo, capito? Cioè, bisogna attraversare il Tevere per arrivare a Eh sì, Monteverde, che non sappiamo si neanche passa fiume. come organizzarci. Senti, Claudio, per chi non lo sapesse, raccontiamo anche un po', l'antecedente, la nascita di Filetti di Sgombro. Sì, è la derivazione di un progetto che si chiama Sgombro, che è un varietà, un cabaret che unisce una decina di artisti al Cinema Palazzo tutti i mesi. Ci sarà ad esempio questa sera, non so quando mandi questa intervista, praticamente. Però tutti i mesi ci vediamo, Clarigo, Daniele Parisi, Davide Grillo, Gioia Salvatori, il Nano Egidio e molti altri, e viene tanta gente al palazzo, abbiamo un nostro, diciamo, territorio per cui ci divertiamo, c'è un bel pubblico e usiamo questo spazio per sperimentare cose nuove. E allora abbiamo pensato di far partire da questa situazione anche degli spettacoli singoli e promuoverli, raccontarli un po' insieme. Ecco, quest'anno siamo stati io, Ivan Tarantino e Daniele Parisi. Sì. E questo tuo lavoro, questo 46 tentativi di lettera a mio figlio, ce lo presenti un po'? Dunque, è un po' diverso dagli altri, anche dal punto di vista della forma, nel senso che qui si tratta di una sorta di biofiction, cioè è l'esperienza di un padre che vive le ansie di una separazione, e quindi, diciamo, in parte è un lavoro autobiografico messo all'interno di una cornice comica, in qualche modo un po' quasi surreale, e con il timbro ironico degli altri miei lavori, però gioca sulla realtà finzione continuamente, e parla di un argomento esplicitamente molto serio e molto delicato, che è quello dei pensieri, delle ansie che può avere, diciamo, una paternità che vive in un territorio, diciamo, non comodo, ma soprattutto, poi questo è anche uno dei motivi dello spettacolo, non mappato, non tracciato dalla letteratura e dal teatro, ecco, non, dal punto di vista del vissuto interiore del padre. Senti, E com'era venuta l'idea? forse proprio da questo, cioè quando mi sono venuto a trovare in questa situazione, nella vita reale, no? Ho pensato che non avevo riferimenti quasi narrativi, cioè non c'erano esempi, cioè non c'erano persone a cui dicevo vabbè io mi faccio come quello, oppure quel pezzo di cosa la copio quell'altro. Ho visto un film che prendeva il motorino invece che la macchina, per andare al figlio, e quindi guadagnava 10 minuti. E allora ho pensato, vabbè, c'è qualcosa, perché c'è anche un argomento tabù, c'è un argomento pure di cui non si può tanto parlare. Poi, come sappiamo, gli uomini sono più culturalmente, sono più, diciamo, resti a raccontare il proprio vissuto emotivo, e anche per questo non si parla molto di questa zona, parliamo così, cioè, se ne parla quando il padre sbrocca, impazzisce e fa i peggiori casini immaginabili, ma non se ne parla, diciamo, in un vissuto normale, magari equilibrato, sebbene difficoltoso. L'idea mi è nata dalla necessità di parlare di questa cosa. Senti, nella locandina La prima riga si legge: Caro figliolo, ti scrivo per spiegarti il senso della vita. perché Parti subito pesante, insomma. aspetti che devi raccontare a tuo figlio, no? Il senso della... Poi lui lo usa il senso della vita e quindi dovrebbe raccontargli come mai si è lasciato con la madre. E allora però non lo può raccontare, non gli va perché il bambino è troppo. Allora cerca di sfuggire a questa cosa cercando di raccontargli il senso della vita. Come dire, cioè, se io gli racconto il senso della vita non c'è bisogno che ti racconto che è successo ieri mattina, oppure oggi pomeriggio, oppure quanto è complicata la situazione, no? Perché se hai il senso della vita, cioè, il senso della vita è tutto in discesa, Ah, dove si sì. spinge. Parti subito coi massimi sistemi, quindi. Capito? Cioè, cerca, però i massimi sistemi crollano rispetto alla quotidianità molto spesso, Sì. almeno apparentemente. Sì. Senti, saranno solo queste due date o poi magari lo porterai anche altrove? Sicuramente, però ancora non so dove, diciamo, sto parlando con delle situazioni, ancora non so dove lo riparò, quindi mo mi gioco tutti questi 2 giorni, diciamo, per adesso. Ok. Senti, vedo che c'è l'evento Facebook, quindi i riferimenti sono quelli per saperne di più. Sì, 46 tentativi di lettera a mio figlio, c'è l'evento su Facebook, Benissimo. dove tutti quelli che ascoltano possono cliccare, mi interessa, forse. Allora ricordiamo Claudio Amorici in scena 30 e 31 marzo alle ore 21 al Teatro Vascello a Roma. Claudio, un abbraccio, ci si vede lì. Grazie, grazie, ciao, grazie tanto Fabrizio, ciao.